Questo risultato si è arrivato dopo 4 anni di totale controllo dei mezzi di informazione e di una creatura propagandistica che ha influenzato fortemente l'elettorato. Secondo me i greci non hanno idea di che cosa hanno votato, non sanno nulla del programma di privatizzazioni forzate e di liberalizzazione di tutto, la trasformazione del paese in un enorme centro turistico che ha in mente Mitsotakis. E l'hanno votato per ragioni di propaganda, diciamo così, perché sono sensibili alla propaganda televisiva. La Grecia è il paese europeo con il maggior numero di ore di televisori accesi. Questo è il risultato, secondo me. Qua in Grecia si dice non bisogna prendersela con gli elettori. Io invece me la prendo con gli elettori, perché gli elettori, secondo me, non sanno quello che hanno votato. Non hanno la più pallida idea di cosa hanno votato. Su alcuni giornali italiani si dice che i greci non hanno votato Tsipras perché non gli hanno perdonato di aver ceduto alla Troika. Ma poi il programma di Mitsotakis è simile a quello della Troika. Sì, esatto. Sulla flessione elettorale di Syriza, sì, è indubbio che ancora paga il fatto che aveva promesso Mario Monti prima delle elezioni del 2015 e dopo si è trovato costretto a dover cedere alle pressioni della Troika e dell'Eurozona. Ma io credo che più che altro, intanto la flessione elettorale di Syriza non si accompagna a un aumento degli altri partiti della sinistra. I comunisti sono più o meno allo stesso livello, il Partito Socialista PASOK anche quello sta in fortissima crisi, per cui sono francamente io attribuirei uno spostamento degli elettori da Syriza verso destra per ragioni di propaganda che vi ho appena spiegato. È possibile vedere un filo conduttore che unisce l'Europa del Sud, la Grecia, l'Italia e forse anche la Spagna con l'avanzata della destra? No, io non sono d'accordo con queste associazioni, perché la destra greca è una destra estremamente diversa rispetto a quella italiana e a quella spagnola, e i motivi che l'hanno fatta vincere, essere vincitrice delle elezioni, sono del tutto diversi, così come è diversa anche la composizione sociale della Grecia. La Grecia è un paese totalmente privo di industrie, è un paese che produce poco, campa di turismo e il secondo posto c'è l'edilizia, per cui non è un paese produttore come invece è l'Italia e come la Spagna, per cui i rapporti sociali e quindi anche la loro espressione politica sono del tutto diversi. Ecco, allora adesso cosa succederà alla Grecia? Succederà che la Grecia sarà lentamente distrutta, sarà un altro paese rispetto a quello che abbiamo conosciuto finora, si trasformerà in un enorme albergo per i turisti e tutto quanto diventerà opera per i turisti. Tutto quanto diventerà privato e sarà opera, la sua funzione sarà solo turistica sostanzialmente. Questo è il futuro che progetta Mitsotakis. Io prevedo che questo progetto, siccome è totalmente distruttivo ed è difficile perfino la società incretinita come quella greca poterlo sopportare a lungo, prevedo che alla fine, quando questo progetto sarà realizzato, ci sarà una grandissima crisi sociale e politica nel paese come quella che abbiamo avuto nel decennio scorso, perché la gente sicuramente non potrà sopportare una situazione di questo genere.